altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qui, fresche come luglio e quasi agosto praticamente. Roberta Giordano sempre con voi per questo appuntamento immancabile del sabato, perché ho voglia davvero di sapere, in tutta questa centrifuga di notizie infinite anche questa settimana, qual è quella sulla quale vorreste fare dei commenti. Certo, ce n'è una, diciamo così, in primissimo piano, questa separazione dolorosa ma necessaria, come ha detto il presidente del Consiglio Berlusconi, con Confini, ma poi ce ne sono un'infinità di altri, quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta. La scelta imbarazzante anche per certi versi. 800 24 00 24 per le vostre libere opinioni. Ma come sempre, un rito, che cos'è che ci conferma e testimonia che non ci sono più le mezze stagioni questa settimana? Pensate che il Financial Times, che è praticamente considerato un giornale di grandissimo prestigio internazionale, racconta questa settimana che la mozzarella di bufala, in buona parte il latte che viene usato per la mozzarella di bufala campana, viene niente po' di meno dal Brasile. Cioè, le mozzarelle non sono più quelle di una volta. Ecco, questa è insomma la morale, no? A parte le mozzarelle blu alle quali abbiamo assistito, diciamo, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, adesso si parla anche di una grandissima quota di latte per le mozzarelle di bufala che viene dal Brasile, e svela il Financial Times questa storia di questa gigantesca fazenda, una specie di enorme fattoria vicino a San Paolo del Brasile, che fornisce, dice, una quantità crescente di latte di bufala congelato col quale sono poi prodotte le mozzarelle in Italia. Praticamente questo proprietario di questa fazenda è un imprenditore italiano, qui l'italianità c'è, però lui alleva bufali su un territorio brasiliano di 80.000 ettari. Poi cosa fa? Il latte ricavato viene congelato istantaneamente, usando anche in questo caso, per carità, tecnologia italiana, inviato in Italia a un ritmo di 170 tonnellate al mese, con una domanda però dall'Italia che non smette di crescere. Allora dicevo, cioè, che mozzarella mangiamo alla fine? È blu, è brasiliana, verde oro, da dove viene? La Coldiretti intanto dice che per garantire l'origine nazionale del latte i consumatori devono acquistare mozzarella di bufala campana garantita dal marchio denominazione di origine DOP, quindi insomma fidiamoci del marchio DOP. Ma questa è una delle tante notizie della settimana, tanto per non stare sempre sul primissimo piano, le prime pagine. Però tra poco sentiremo anche l'opinionista estemporaneo che ho convocato per oggi, che scelta fa delle notizie della settimana. Ma intanto andiamolo a presentare, signore e signori. Donato Speroni. Eccomi. Ecco. Donato, scappato dal Trentino, a proposito di non ci sono più le mezze stagioni? Sì, sì, sono a Milano, la città è semivuota, c'è un'atmosfera primaverile, direi che siamo quasi in mezza stagione. Forse la mezza stagione, ecco, non è che non ci sono, si collocano, diciamo, in spazi forse non ortodossi e imprevedibili. Donato Speroni c'ha un curriculum infinito, adesso prendo fiato e ve lo racconto. Intanto insegna economia e statistica all'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, ha lavorato per il Corriere della Sera, è stato fra l'altro vice direttore del Mondo, direttore di Capitale Sud, capo ufficio studi della Montedison, direttore centrale dell'ENI, responsabile della comunicazione esterna dell'Istat e collabora col bimestrale East Europe and Asia Strategies, eccetera eccetera. Ha scritto alcuni libri, l'ultimo si chiama I numeri della felicità. Non so quanto numeri e felicità possano stare insieme, io quando sento parlare di numeri già mi rattristo in qualche modo, forse per la difficoltà, un'idiosincrasia con i numeri. Però Donato Speroni in realtà fa una riflessione molto interessante in questo libro, cioè mette in collegamento il PIL, prodotto interno lordo, cioè la ricchezza insomma di un paese, e la felicità, e dimostra che non sempre un PIL alto vuol dire anche un alto benessere, anche se sembra, no, si calcola sempre questo PIL per capire il benessere appunto di un paese, ma evidentemente non è così automatico. Infatti ci racconta che ci sono paesi ricchi e felici come i paesi scandinavi, tanti se non facesse così freddo vorrebbero andarsene lì, e poi che cioè hanno ha un certo tasso di soldi e un basso livello di felicità. I paesi scandinavi no, i paesi scandinavi sono felici, mentre sono ricchi e infelici i paesi arabi, mentre sono poveri e felici alcuni paesi del terzo mondo, no? E invece sono l'Italia, esatto. Che punto sta, Donato? Ma dunque, L'Italia nella classifica della felicità, l'ultima classifica Gallup, sta al 36esimo posto e gli italiani alla domanda ma tu quanto sei felice su una scala da 1 a 10, anzi da 0 a 10, rispondono mediamente 6,3. Una sufficienza proprio così un po' risicata, diciamo. Sì, infatti un 6 più, diciamo. Nella classifica del PIL è un po' più in alto, quindi però c'è da dire che l'Italia ha perso parecchie posizioni nella classifica della felicità negli ultimi due anni con la crisi, come parecchi paesi europei. Un'infelicità che si è abbattuta a livello internazionale. Prego, volevi dire? No, volevo dire una cosa sulla tua idiosincrasia per i numeri. Sì. Perché non è soltanto tua, questo è un problema italiano che abbiamo in Italia. Nel senso che forse è il tipo di cultura nostra, ma possibile. C'è in generale diffidenza verso la cultura numerica. Mentre invece è molto importante anche ai fini della politica di qualsiasi tipo di intervento essere in grado di quantificare i fenomeni. Hai ragione, è una mia colpa che io facevo, sono molto italica in questo. Apro il libro nella mia introduzione dicendo che molte persone quando hanno saputo che stavo scrivendo questo libro dicevano ah com'è interessante, poi cambiavano rapidamente argomento proprio perché c'è una diffidenza verso tutto quello che ha a che fare con i numeri. Però tu con tutti questi numeri, avendone competenza e dimestichezza, insomma, alla fine come si misura la felicità? Quindi se non è il PIL, quindi la ricchezza di un paese, che poi bisogna vedere anche come è distribuita, ma immagino che quando si fa il calcolo si intende una questione media, ecco, della popolazione. Che cos'è? Alla fine tu hai capito se c'è qualcosa che rende più felici del PIL? Ma dunque sicuramente sì, nel senso che il livello di felicità o diciamo di benessere segue parallelo la crescita della disponibilità economica fino a un certo punto. Mm. Arrivati a un certo punto, quando diciamo le esigenze fondamentali di una persona, di una famiglia, di un paese sono assicurate, non cresce più, anzi ci sono degli economisti che dicono che oltre un certo livello il tentativo di accrescere la ricchezza diminuisce la felicità. Allora, queste cose si dicevano già da parecchio tempo, ma addirittura Bob Kennedy già nella campagna elettorale del 68, un mese prima di essere ammazzato, disse che il PIL non misurava la felicità. Forse era stato ammazzato per quello, può essere, no? No, era stato ammazzato per tante altre cose. Ma comunque, diciamo, qual è la novità? La novità è che adesso sappiamo che comunque non possiamo crescere in modo illimitato per i vincoli che abbiamo sul piano ambientale, per la crescita della popolazione, per tante ragioni. Sappiamo anche che è più facile misurare oggettivamente la felicità, c'è addirittura chi dice che si può misurare con delle misurazioni sulle onde del cervello, ma a parte questo proprio ci sono ormai esperienze che durano da decenni sulle rilevazioni, sull'autopercezione della felicità o che coincide con quello che gli altri dicono sulla nostra felicità. Insomma, diciamo che è diventata l'arte della misura del benessere e della felicità, è diventata una cosa piuttosto oggettiva. Una questione complessa. Senti, Donato Speroni, mi viene voglia, in base a quello che stavi appena dicendo, cioè che non possiamo crescere a dismisura, di collegarti immediatamente con una delle notizie principali, no, di questa settimana, la Fiat, la scelta di Marchionne, ci stacchiamo dal contratto nazionale per lo stabilimento di Pomigliano, perché la produttività deve essere al primo posto, eccetera, eccetera. Cosa ne pensi di queste scelte? Ma io credo che noi abbiamo un sistema industriale, un sistema di relazioni sindacali piuttosto vecchio, quindi che questo sistema debba evolversi non c'è dubbio. Che Marchionne stia tentando una forzatura proprio andando oltre i contratti nazionali, anche questo è mi sembra sicuro. Insomma, questa è una partita aperta, quindi l'evoluzione è necessaria, il modo in cui questa evoluzione può avvenire è tutto da verificare. Bene, quindi questa è una delle notizie, già l'abbiamo toccata con Donato Speroni. Che cosa vi ha colpito questa settimana? Su cosa volete ritornare con la vostra libera opinione? Tra pochissimo c'è Gianfranco dalla provincia di Fermo, al numero verde 800 24 00 24. Ma come sempre, un po' all'inizio, dopo la presentazione dell'ospite, vogliamo anche così darci un'angolazione un po' diversa, un po' extraterrestre. Riflessioni da Marte. Qui da Marte, questa settimana, osservando la sfera terrestre e in specie lo stivale italico, ho potuto effettivamente constatare con una certa tristezza, seppure marziana, che i dati Istat di questi giorni sono confermati. È vero che in Italia i divorzi sono in costante aumento, sarà per l'infelicità di cui parlava Donati. Il 18% delle coppie si dice addio, senza contare poi quelli che, come succede ogni settimana, tornano indietro ad ammazzare l'ex moglie. Ma il divorzio dell'anno, in realtà, fa seguito a un matrimonio durato più della media, 16 anni anziché 15, insomma, l'impegno sotto c'è stato. Il matrimonio è quello tra Fini e Berlusconi. Un matrimonio, secondo molti, in cui non c'è stato mai vero amore e dopo il quale non ci potrà mai essere vera amicizia. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non è. Eh sì, insomma, tutto finisce, tutto passa, l'acqua scorre, il cuore dimentica, come diceva Flaubert, e tutto finisce sempre un po' in politica, in qualche modo, no? Ultimamente hanno dato un loro sostanzioso contributo a questa cosa, persino i latticini, no? Dopo la mozzarella blu dei giorni scorsi, intuitivamente, diciamo, di destra, questa settimana in Sardegna è comparsa la ricotta rossa, indubitabilmente di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? E come se non bastasse tutto ciò che accade, tutto quello che già accade sul globo terracqueo, gli scienziati hanno ora dato notizia di una scoperta, io direi, funesta. Ci sono almeno 140 pianeti simili alla Terra, insomma in vista ci sono guai, ma niente paura, l'incessante follia terrestre è peculiarità inimitabile della Terra, almeno si spera. E del resto, come disse un noto fumettista americano, il più sicuro segno che la vita intelligente nello spazio sconfinato esiste e che non ha mai provato a contattarci. Extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre, vienimi a pigliare. Voglio un pianeta su cui ricominciare. Situazione extraplanetaria, ma noi ritorniamo coi piedi per terra alle notizie di questa settimana e dicevamo c'è già dal numero verde 800 24 00 24 Gianfranco dalla provincia di Fermo, quindi nelle Marche. Gianfranco. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. C'ho un qualcosa da chiedere al vostro ospite, dato che si parla di felicità, eccetera. Io provengo da una famiglia di sinistra. Sì. E io quasi costretto, diciamo, a stare a sinistra, no, ma non sono felice. Sono felice di dire. Adesso comincio a essere felice perché mi sorprendo quasi tutti i giorni a dire bravo Fini, oh, così si fa, questo è legale. Cioè, che mi sta succedendo? Non lo puoi spiegare, sto signore. Gianfranco, tu hai bisogno. Comincio a essere felice. Senti, ritieni, però, ritieni di aver bisogno, Gianfranco, di uno psicologo o di un opinionista in questo momento? Ma chi gli devo dire? Guardi, io mi sento male. Cioè, mi sento male e bene allo stesso tempo. Sì. Perché finalmente si parla di legalità, insomma, me l'ho spiegato. Ma ci voleva Fini. Sì, ma tu, la sinistra lo sta. Dove sta? Senti, ma tu dove vuoi, alla fine, dove vuoi stare? Che parte io, vuoi stare? Guardi, io parteggio per chi è per la legalità, per le cose giuste. E purtroppo è l'unica Fini adesso. Senti, Gianfranco, allora... No, purtroppo, a me mi sta bene anche Fini, perché a sto punto mi sta bene. Però provengo da Fini, cioè... È una crisi di identità, una forte crisi di identità. Allora, Gianfranco, non ci abbandonare, perché questa cosa mi stimola adesso di sabato, così con questo cielo un po' scuretto qui a Milano, visto che non ci sono più le mezze stagioni. E quindi rimani con noi. Donato, che rispondere a Gianfranco? Perché, dice, sono stato costretto un po' dalla cultura familiare a stare a sinistra, però ero infelice, adesso improvvisamente sono felice perché vedo che Fini dice le cose che vorrei, allora da che parte sto, chi sono, cosa voglio? Allora, intanto uno statistico che studia la felicità comincerebbe col dire che la felicità globale di Gianfranco è fortemente influenzata dalle sue idee politiche, cioè c'è chi dà particolare importanza, non lo so, per esempio ai valori religiosi, alla rete degli amici, c'è chi dà particolare importanza alla politica e questo va benissimo, sono scelte individuali e ovviamente il paese è fatto di persone che hanno sensibilità diverse. Forse, scusami Donato, Renato, se ti interrompo, sì, è anche una questione di tempi, di periodi, di epoche, no? Fino a qualche decennio fa, forse 20-30 anni fa, l'ideologia, la fede politica sicuramente condizionava molto di più la propria felicità, il modo di vivere, no? Forse era qualcosa, sarà stato forse più sincero, c'erano più partecipata. C'erano sicuramente ideologie molto più forti. Ecco. Oggi noi abbiamo, secondo me, una tendenza alla ideologizzazione, soprattutto in Italia, anche quando non ne vale la pena. Faccio un esempio banalissimo. Sì. Prima del mio libro è uscito un libro in Francia che si chiama I nuovi indicatori della ricchezza, quindi un titolo asettico. Sì, sì. In Italia l'editore ha pensato di chiamarlo No Pill contro la dittatura della ricchezza. Cioè ogni cosa deve essere gridata nel nostro paese, se no non viene presa in considerazione. Mentre i numeri della felicità è già... Senti, e quindi dicevi, tornando alla felicità di Gianfranco. Ecco, tornando un attimo a Gianfranco. Sì. Tu, giustamente, prima, come marziana, hai fatto uno stacco con la canzone di Gaber, che cos'è la destra e che cos'è la sinistra. Io ho l'impressione che diciamo lo sconcerto di Gianfranco nasce dal fatto che oggi c'è un totale rimescolamento, e forse perché le partite sono altre, cioè non è più tanto il problema della destra o della sinistra, la partita della legalità si gioca sia a destra che a sinistra, e c'è anche da chiedersi qual è la vera partita sul futuro del paese che si sta giocando in questo momento, al di là del conflitto Berlusconi-Fini. Io ho le mie risposte. È interessante, no? Perché non è un quesito irrilevante, effettivamente. Che risposte hai, Donato Speroni? Posso continuare su questo? Sì, sì, sì. No, volevo sapere quali sono le tue risposte, a che cosa c'è dietro. Insomma. Innanzitutto c'è un disegno chiaro di Berlusconi, che è il disegno presidenzialista, che vuole indebolire l'equilibrio dei poteri, ed è completamente impostato sulla fiducia che lui ha nel suo consenso personale, nel suo consenso elettorale. Non è detto però che questo disegno riesca. Allora, quali sono i disegni più di lungo termine? Secondo me ce ne sono due che si giocano soprattutto sul fatto che questo paese possa o non potrà o non potrà rimanere unito. Cioè, da un lato c'è un disegno che, mettiamo fra virgolette, Tremonti e Bossi, che è quello che praticamente ritiene che la secessione sia già in atto, cioè non è una secessione voluta coi fucili che Bossi sbandiera ogni tanto, è la secessione dell'economia, dei comportamenti, delle divaricazioni che abbiamo fra le diverse regioni. Allora, proviamo a immaginare una situazione col federalismo fiscale, con l'autonomia delle regioni per ripagare un debito pubblico magari frazionato fra le diverse regioni, con la gestione decentrata del demanio. Alcune regioni ce la faranno e altre no. È possibile che alcune regioni escano anche dall'euro. Allora, questo è un disegno, diciamo, quello di dire ormai il paese è a un tale stato, in una tale situazione che dobbiamo solo aspettare la sua disgregazione. Dall'altra parte c'è il disegno di chi pensa che invece questo paese possa essere tenuto insieme. E qui ci sono da Napolitano a Fini a Bersani, però è chiaro che questo richiede coesione, richiede sacrifici, richiede coraggio politico, un coraggio che francamente mi sembra che neanche la sinistra abbia avuto fino adesso. Insomma, mi sembra che la partita sia questa, cioè se è possibile tenere insieme l'unità del paese in futuro e a quali condizioni. Molto interessante questa lettura di Donato Speroni. Cosa ne pensate voi e qual è comunque la vostra opinione su tanti fatti della settimana, non necessariamente una sola notizia, quella centrale? Darei per esempio parola, sempre al numero verde che potete continuare a chiamare, c'è Giorgio De Luca prontissimo per le vostre telefonate, 800 24 00 24, Marinella da Viterbo. Pronto? Eccoci, Marinella. Volevo rispondere al signore di sinistra infelice che è diventato felice da quando Fini ha rotto con Berlusconi. Gianfranco. Volevo dirgli che secondo me la felicità in una nuova destra di uno di sinistra mi sembra un po' ridicola. E comunque che non è Fini il primo ad aver evocato la legalità in questo paese. I radicali da 20 anni, da tanto tempo, da sempre lo fanno, ma la sinistra non li ascolta, a quanto pare. C'è bisogno di uno di destra, allora mi sembra che questa sinistra sia abbastanza messa male. Grazie Marinella, grazie. Da Pisa invece c'è Giovanni. Buongiorno a lei, al suo ospite, a chi ci ascolta. Buongiorno Giovanni, a te. Diciamo, io sono per Fini, pur essendo di estrema sinistra, perché appunto per il discorso della legalità, la mia impressione è che Fini e i finiani non cerchino potere o altre o altre cose del genere, ma si stiano praticamente eliminando dal gioco politico, perché cosa ci guadagnano? Cosa ci guadagnano se sono comunque pochi, anche se ci dovesse essere un apparentamento per nuove elezioni, rimarrebbero sempre, secondo me, ai margini. Quindi Giovanni, tu dici quello, lo slancio di Fini, tutto quello che ha fatto in questi mesi e questa spaccatura deriva da una sincera voglia di essere bravo, se stesso, bravo, di aderire a certi valori, e non è una questione strategica o di convenienza o di strani disegni, dici? Sì, la mia impressione è questa. Voi avete fatto sentire Gaber, che era un mio amico, la canzone, c'era una canzone di Gaber che diceva buttare lì qualcosa e andare via. Sì. Si ricorda? Sì, sì. È veramente un discorso che non si sente mai. Cioè uno che fa una cosa sinceramente, secondi disinteressatamente fini, e va via. Senza secondi fini, ho detto. È uno solo fini, non sono due fini, una faccia, l'altro con la faccia. Senti, Giovanni, ecco, però a questo proposito, visto che tu sei, dici, di estrema sinistra, hai fatto un po' questa analisi politica, ti volevo dire, c'è stato questa settimana, come spesso, un sondaggio, in questo caso del IPR Marketing per Repubblica.it, secondo quale sondaggio, se si facessero delle primarie all'interno del centro-sinistra, del PD, diciamo, Nichi Vendola batterebbe Bersani. Tu da che parte penderesti? Sì, io mi piace più Bersani. Secondo me è un ottimo amministratore della regione Emilia. Può arrivare fino lì. Io oltre non ce lo vedo, ma mi posso sbagliare, bisognerebbe mettere alla prova le persone. Il problema di Nichi Vendola è che è cattolico, e io sono diffidente rispetto ai cattolici. Mi sembra un cattolicesimo molto aperto, però, quello di Vendola, per i cattolici che ci ascoltano, ma insomma io... No, Giovanni, giustamente, ascoltami, mi senti, Giovanni? Sì. Ognuno giustamente, legittimamente, ha le proprie opinioni, però il cattolicesimo di Vendola, per chi magari è molto molto laico, mi sembra un tipo di cattolicesimo molto aperto. Lui tra l'altro è gay dichiarato, non mi sembra così. Sì, no, rispetto al cattolico gretto, se siamo al settimo cielo, diamine, no, per carità. Però avrei preferito che fosse un laico non credente. Ho capito, vabbè tutte le preferenze sono... devo dire, ho capito, credo a questa cosa qui, credo a non credere. E poi volevo... pronto? Mi senti? No, ti stavo riflettendo su credo a non credere, Giovanni. Dimmi, sì. No, sono d'accordo poi con quello che ha detto il suo ospite, perfetto. Dico, questo è un basso impero, cioè c'è stato un gioco al ribasso, per cui io mi contenterei della legalità di Fini, pur essendo di estrema sinistra. Quindi, si figuri, sono d'accordo completamente, ha detto una cosa molto, secondo me, molto giusta. Giovanni, ti ringrazio. Grazie, Giovanni. E chiedo, poi ci sarà Stefano da Terni e altre ascoltatrici e ascoltatori al numero verde 800 24 00 24, un'altra cosa a Donato Speroni. Mi viene in mente, no, citando Vendola e poi Fini, che sappiamo ha creato con i fedelissimi finiani un nuovo gruppo, Futuro e Libertà, Futuro Libertà per l'Italia. Poi Vendola è leader di Sinistra Ecologia e Libertà, poi il Popolo, il PDL, il Popolo della Libertà. Com'è che c'è ultimamente tutto questo insistenza, e non so poi con quale sincero significato, sulla libertà, sulla parola libertà, secondo te, Donato? Ma, è una domanda, da un milione di dollari, mi rendo conto, insomma, a proposito di Superenalotto. C'è un punto che unifica, secondo me, gli interventi di Marinella e di Giovanni, che gli unici che buttano lì qualcosa e vanno via sono proprio i radicali, che non hanno mai avuto poi un tornaconto personale nelle cose che hanno fatto. Sulla libertà non lo so, sai, le parole in politica vanno di moda, cioè in questo momento è chiaro che è di moda sottolineare l'aspetto della libertà, come in altri momenti poteva essere il socialismo o altre parole chiave. Io non credo comunque che Fini si sia limitato a buttare lì qualcosa, cioè non dimentichiamo che la partita è sul cambiamento della legge elettorale. Se effettivamente si riuscirà a cambiare la legge, ma chi sta al centro avrà un ruolo fondamentale, cioè con la fine del bipolarismo, quindi è una partita, come giusto che sia, è una partita politica molto importante, non è semplicemente l'ago della bilancia, dici tu, diventa certo, tra lui, Casini, tutto quello che sta al centro, ovviamente. Ho capito. Stefano, prima di dare la linea poi alla parte tecnica, c'è il nostro Pietro Lacorte che tra poco mi annuncia una pausa, ma abbiamo ancora prima di questa ulteriore pausa Stefano da Terni. Buongiorno signora, stavo sentendo la trasmissione. Buongiorno Stefano, ti prego non mi chiamare signora, mi viene proprio l'orticaria, comincio a sentire proprio tutte delle puntini allora, rossi. Mi chiedo scusa di questa mia improprietà. Grazie. O Roberta, guardi, o chiamami come... Va bene, come la ringrazio. Diciamo che la sinistra purtroppo ha una necessità di crearsi delle icone. Si è creata l'icona Fini semplicemente, non dico ricordando i trascorsi di Fini, e ovviamente oggi Fini va per la maggiore perché è contro Berlusconi, quindi questo diciamo è il motivo reale di questi amori. L'altra icona è Obama, che in Italia è stata la sua elezione è stata accettata, tesa come se fosse dovesse diventare il Presidente della Repubblica Italiana, e ieri è comparso la sua intervista dove esaltava l'operato di Marchionne avendo rimesso in carreggiata una fabbrica, ecco diciamo in carreggiata proprio è l'idea, la Chrysler. Quindi diciamo che è vero che nessuno è profeta in patria, però ecco diciamo questi atteggiamenti che sconfessano un po', ossia non sconfessano Obama, perché in realtà, però ecco sconfessano questo entusiasmo della sinistra che alle volte certe mosse sono proprio contrarie ai propri indirizzi, alle proprie mentalità. Ecco, le premetto, io non sono di sinistra, però rimpiango il vecchio Partito Comunista, perché almeno ecco lì c'era un discorso di chiarezza e nettezza di intenti. Sapeva quello che voleva, dice, adesso la sinistra... Era anche un discorso di uomini, ecco, diciamo, non dimentichiamo che i partiti sono fatti da uomini. E da qualche donna, ultimamente, una minoranza. Diciamo, non parliamo da un punto di vista parliamo di bipedi, parliamo di bipedi. Ecco, quindi obiettivamente, ma magari, guardi, io le dico sinceramente, se l'onorevole Fini guardasse un po' indietro, si renderebbe conto che uno dei migliori presidenti della Camera è stato l'onorevole Nilde Iotti, che nonostante il trascorso che aveva, ma è stata veramente una persona super partes. Quindi ecco, qualche volta bisognerebbe guardare un po' anche il passato. Bene, insomma, abbiamo onorato Nilde Iotti. Grazie Stefano. Volevo chiedere a Donato Speroni, secondo te, visto che prima Stefano si citava Obama, mi viene in mente... questione che uno dice, ma così, piccolo gossip, in realtà è una questione anche di diplomazia internazionale, nazionale, cioè, perché i Clinton, della quale figlia oggi Chelsea si sposa, non hanno invitato Obama, secondo te, al matrimonio? Ma secondo un corsivo del Corriere che ho letto oggi, per fargli un piacere perché ha già tanti impegni. In realtà non lo so, non so con che criteri sono stati fatti gli inviti. Insomma, vi leggevo adesso, no? È in corso, tra pochissimo inizia e finalmente è stato svelato anche il luogo, se qualcuno volesse correre così all'ultimo, un last minute, prendere un aereo e andare negli Stati Uniti, è a Rhinebeck, non so bene come si legge, paesino di 8.000 anime, comunque nello stato di New York. Già verrà invaso tra poco da 400-500 invitati. I Clinton, per farsi perdonare, hanno deciso di regalare ai residenti, insomma, questa invasione, questo paesino di circa 500 persone, varie bottiglie di vino. Non mi pare che risulti che una bottiglia di vino sia arrivata a Obama, giusto così, cioè, per delicatezza. Niente, proprio... No, sto guardando, niente vino. Niente vino, vabbè. Cioè, senti, posso dire una cosa sulla politica delle icone di cui parlava Stefano? Sì. Io vorrei una politica non delle icone, ma dei progetti. A me mi ha molto colpito un articolo di Franco Morganti sul Corriere di ieri, una persona intelligente, sì, che dice: ma noi chiediamo ai giovani di impegnarsi di più, ma per che cosa? Per un posto in precario in un call center? Se non c'è un grande progetto di società, come si può pensare di ottenere coesione e impegno? Hai ragione, io questo è fondamentale. Spero, Donato Speroni, che a forza di ripetere questa cosa, questo concetto, no? Di voler incentivare, motivare i giovani, eccetera, eccetera, ma appunto senza progetti, senza un obiettivo, che qualcuno poi qualcosa faccia in merito, perché blaterando, appunto, non so dove arriveremo. Ma dimmi anche un'altra cosa, naturalmente non si è smentita anche questa settimana, donne uccise in Italia da fidanzati, ex fidanzati, mariti, ex mariti, non mancano mai, una ogni due giorni. Adesso si comincia a parlare finalmente, anche se un libro è uscito di una giornalista già due anni fa, mi pare, di femminicidio. Secondo te com'è che Poi leggevo che insomma erano stati stanziati diversi milioni di euro, ma ne sono stati usati pochissimi per la prevenzione, per i centri di tutela, di assistenza delle donne perseguitate, molestate da stalking, eccetera, eccetera. Com'è che lettura dai? Ma io credo che i centri di assistenza alle donne che subiscono violenza svolgano un'opera importantissima. Sì, ma perché continua questo femminicidio in Italia, secondo te? Ogni settimana, ogni due giorni ce n'è una. Ma io credo che ci sia una grossa violenza in famiglia spesso, e ovviamente la donna è spesso l'elemento più debole della famiglia, quindi la violenza si rivolge più contro la donna. Ma è vero, come ha letto anche qualche sociologo? Non è un campo in cui posso dirmi esperto, quindi no, esperto faccio un ragionamento. Neanche io sono esperta, però può essere vero effettivamente, come si legge da più parti, sociologhe eccetera, che dicono è proprio vero che questa ricercata costante emancipazione femminile, che ancora non è avvenuta del tutto neanche in Italia, continua evidentemente a un maschio che per molti aspetti culturalmente è rimasto un po' primitivo e possessore, continua a creare contrasto. Il fatto che una donna magari tra i 30 e i 40 a un certo punto decida di andarsene, perché oggi è indipendente, può avere anche una vita sua e non sta più insomma di ripiego diciamo con un uomo, è una cosa inaccettabile evidentemente. Si parlava anche di immaturità emotiva di molti uomini. Ma una cosa che stavo guardando prima, vediamo se ritrovo, per esempio nella presentazione della notizia dell'uomo che ha ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata Loreto e ha ferito gravemente lei, in un primo momento la notizia era stata presentata con lui definito il capofamiglia, che poi invece si è scoperto che era un ex fidanzato della poverina. Ma anche il fatto di definire ancora oggi il capofamiglia, cioè questo considerare che sia al vertice di una gerarchia, di una piramide, è una cultura che in qualche modo continua sempre ad alimentare il senso di una categoria di serie A e di serie B, e poi tutto viene di conseguenza. Non è un collegamento così peregrino, mi sembra. No, è una concezione tradizionale quella che c'è un capofamiglia e poi ci sono gli altri che sono sottoposti al capofamiglia. In realtà questo non è vero. Adesso piccola annotazione, persino l'Istat ha cambiato, nel senso che parla di persona di riferimento, nel senso che conta la persona che porta il reddito più importante nella famiglia, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina. Però è chiaro che tutto questo crea in molti uomini una situazione di insicurezza, perché si sono rotte le certezze del passato e molti non sono in grado di affrontare questa situazione. Questo è un passaggio, cioè questa crescita del ruolo delle donne nel mondo del lavoro e questa maggiore autonomia che hanno oggi le donne, chiaramente non è una cosa che tutti gli uomini sanno accettare. Dico un'ultima cosa sull'argomento, sapete che io ho un lato sensibile su questo, ci mancherebbe, insomma. Copertina del Time di questa settimana c'è una ragazza afghana, quando si dicono ma le donne afghane o le donne dei paesi insomma forte tasso islamico integralista non reagiscono, se non reagiscono vuol dire che sono d'accordo. Ecco, la ragazza che c'è sulla copertina del Time, una ragazza afghana che si è voluta sottrarre all'angheria degli uomini della famiglia, le hanno tagliato il naso e le orecchie, se vedete non ce li ha. Antonio da Roma. Sì, un attimo che c'è un po' di rumore, dove sono? Dove sei Antonio? Sull'autostrada? Sull'autostrada Bollino Nero? Sei in viaggio verso le vacanze? No. Volevo tornare a parlare di Fini. Sì. Diciamo, e volevo dire questo. Diciamo, ho sentito un altro radioascoltatore che era, lui si definiva di estrema sinistra e diciamo Giovanni. Era entusiasta di Fini. Sì, era anche entusiasta di Fini. Adesso io dico questo. Io per esempio, io mi sono iscritto all'allora Movimento Sociale Italiano quando avevo 14 anni, per cui ho radici di destra, ovviamente, no? Poi quando è entrato in campo Berlusconi, francamente ho votato Berlusconi perché vedevo un altro personaggio di ben altra dimensione, proprio di varie questioni. E adesso Fini, io se avessi votato Fini, ma sarei stato estremamente deluso, perché voglio dire, lui da una politica di destra adesso sta facendo una politica che è assolutamente di sinistra, per cui lui non è che ha tradito Berlusconi per il patto, l'alleanza per il partito, lui ha tradito il suo elettorato, per cui lui dovrebbe assolutamente dimettersi perché ha tradito il suo elettorato. Cioè il suo elettorato non si riconosce assolutamente nella politica che sta facendo Fini, perché è una politica di sinistra, e lui lo sta facendo esattamente per i suoi scopi personali, perché evidentemente lui nella sua mente, diciamo, forse si sta cioè, ha come obiettivo quello di diventare Presidente della Repubblica negli anni futuri, per cui lui si deve ingraziare l'elettorato di sinistra, in modo che certamente io origini di destra vedrò da destra, poi prenderò anche da sinistra, perché faccio diciamo una certa voglia di sinistra, ma questo lui per tutti i suoi scopi personali, francamente. E poi il discorso della parola libertà in tutti i momenti politici, questo francamente a me fa molto sorridere, perché noi cittadini ci sentiamo tutti quanti, sia di destra che di sinistra, trattati esattamente come sudditi. Perché voglio dire, pensi che io pago il 65% di tasse su quello che io guadagno, va bene? Lo Stato, o per un motivo o per un altro, mi prende un totale, ho fatto la somma, 65%, che è un'assurdità, no? Poi mi trovo, per esempio, c'è stato il codice della strada che è entrato in vigore proprio in questi giorni, sì. Recentissimamente. Il codice della strada, se uno va a vedere, è veramente una presa in giro totale, e quello l'hanno votato tutti, destra e sinistra, voglio dire, è stato un trucco per poter rubare i soldi nelle tasche dei cittadini, perché quando ci sono ormai gli strumenti per poter dire se un cittadino non si comporta bene, gli si tolgono i punti della patente, e poi se mai gli si toglie la patente, no? E al limite gli si toglie a vita, per se uno è un drogato o se uno è alcolizzato, per cui invece no, qui il problema è quello che si devono togliere i soldi nelle tasche dei cittadini. Antonio, sì, è chiarissimo il tuo discorso. Quindi Antonio dice altro che libertà, qui oppressione soprattutto economico-fiscale. Però Donato Speroni, mentre altri dicevano Fini insomma agisce sinceramente, spontaneamente, quasi un kamikaze, lui diceva no, un suo scopo ce l'ha, quello di ingraziarsi un po' una parte e l'altra e diventare prima o poi Presidente della Repubblica. Possibile? Dice Antonio, sì. Sì, dice Antonio. Tu che pensi? Ma io stavo riflettendo sulle parole di Antonio. Qual è la politica di sinistra di Fini? Perché che cos'è di sinistra? La difesa della legalità, francamente, non mi sembra che sia una politica particolarmente. Senti, di io sinistra. Credo, scusami, sì. Donato Speroni, che è un punto qualificante, sì. Secondo me, che è quello dell'immigrazione. Poi mi pare che anche si sia, col caso Englaro esposto sulla questione del testamento biologico, ha cambiato idea sui diritti delle persone omosessuali. Forse tutte queste cose insieme probabilmente danno a molti l'impressione, e il fatto che abbia attaccato così spesso fino alla rottura Berlusconi, no? Ecco, allora distinguiamo, perché io pensavo che il discorso destra-sinistra un tempo avesse a che fare con la giustizia sociale, con l'equità e così via. Se invece parliamo di libertà e quindi... I diritti civili, non so, dice un'altra cosa. È un'altra cosa che attraversa trasversalmente la destra e la sinistra. Prima citavo il Partito Radicale, ci sono anche radicali di destra che condividono gli stessi valori, per esempio. Mm-hmm. Quindi a me non sembra che questo possa servire a dire che Fini è di sinistra. Il tema molto, molto scottante è quello dell'immigrazione, dove c'è una parte dell'elettorato italiano che è estremamente sensibile, però noi dobbiamo anche renderci conto di qual è la situazione, a che cosa andiamo incontro. Noi andiamo incontro nel giro di 20 anni a una situazione in cui l'Africa crescerà di 1 miliardo di persone, mentre l'Europa diminuisce di 70 milioni. Allora, per quanto si debba, è necessario regolamentarlo, però bisogna affrontarla questa situazione, bisogna avere una politica attiva nei confronti del resto del mondo, non si può far finta di ignorare i problemi e chiudersi, quindi secondo me Fini da questo punto di vista ha perfettamente ragione. Se poi essere di sinistra vuol dire essere contro Berlusconi, allora tutti quelli che non sono d'accordo con Berlusconi sono comunisti, vabbè, questo però è uno schemino che un po' troppo, premier un po' troppo rigido di applicare, ma insomma è un po' troppo schematico. Mario da Roma, sempre al numero verde 800 24 00 24, poi subito aggiorniamo chi sta viaggiando verso le vacanze e anche altrove ovviamente. Walter, Mario, ci sono pronto, Walter, buongiorno. Cosimo, buongiorno a tutti. Sì, buongiorno. Mi scusi, io volevo fare un intervento legato a una cosa che ha detto il suo ospite, sì, riguardo alle donne, a questo, diciamo così, contesto sociale di femminicidio. Lui ha detto 5 minuti fa che le donne sono l'anello debole della famiglia o della società. Io invece dico esattamente il contrario. Proprio perché le donne, diciamo che in questi ultimi 15 anni hanno avuto un'enorme rilevanza sociale proprio nel contesto, cioè sono donne, studiano di più degli uomini, sono più brave a scuola, all'università, sono più brave sul lavoro, hanno preso spazio e via. Proprio per questo, naturalmente, gli uomini si sentono defraudati di uno scranno che hanno, diciamo così, immeritatamente tenuto per tanti anni e reagiscono violentemente. Io lo dico perché, io faccio il volontario in carcere da tanti anni e il contesto che diciamo vivo è proprio questo, cioè non la soggettivizzazione ma il considerare diciamo così le mogli, le sorelle, le mamme, una proprietà. Esatto, ma non solo una proprietà, un contesto oggettivo, cioè loro, le persone con cui io faccio i colloqui, dicono: ma mia moglie non mi ha portato i calzoni, mia moglie non mi ha portato questo, mia sorella è un mese che non viene, senza considerare il fatto, e io molto spesso mi arrabbio, cioè entro in contraddittorio con loro dicendogli: ma tu che vita gli hai fatto fare a tua madre, a tua moglie, a tua sorella, ai tuoi figli? Ecco, questo è un contesto, è un retaggio sociale, e molto spesso il carcere, come sottocultura diciamo così popolare, è speculare alla società, non è che... Senza dubbio. Mario, io ti ringrazio moltissimo per questa analisi che a me personalmente, sarò parziale, mi è piaciuta molto. Se passi da Milano, vieni a trovare che facciamo una chiacchierata. Va benissimo, grazie. Buona giornata. Ciao Mario, a te. Ancora molte telefonate, io darei ancora spazio, per esempio, sempre da Roma, a Cosimino. Buongiorno a voi, mi sentite? Sì, sì, benissimo, chiaro. Cosimino, prego. Perfetto. Niente, innanzitutto buongiorno a tutti. Sto chiamando semplicemente per fare gli auguri all'onorevole Fini, che non ho mai votato. È il suo compleanno? Ma mi sento di fare tanti auguri, ricordando che purtroppo i compromessi non pagano e lui tardivamente sta pagando il compromesso non tanto con Berlusconi, a parer mio, ma nell'aver accettato di entrare in governo con Bossi, e oggi questa situazione ritorna indietro pesantemente. E quindi dici auguri per la sua nuova avventura, che ne avrà bisogno. Grazie Cosimino. Da Alessandria invece in Piemonte, Walter. Buongiorno. Buongiorno Walter. Io chiamo perché c'è un ritorno. No. A volte si va, a volte si torna, dipende. Pronto? Sì. Hai la radio accesa per caso, Walter? No, probabilmente erano le cuffie. Ah, le cuffie della radio, che cuffie hai? No, le cuffie del cellulare. Ah, è l'auricolare, giusto, l'auricolare, quello, sì. Bisogna averlo, perché sennò guai. Prego, Walter. Dicevo, mi volevo legare al discorso che ha fatto il signor Speroni all'inizio, sì, sull'Italia che, in sintesi, ha due velocità, le regioni che sono più proiettate verso l'Europa, altre che vengono... Il sud che è penalizzato, eccetera, eccetera, sì. Partendo da quello, un discorso molto interessante e intelligente di Sperone, volevo dire che il problema di Fini, ma non solo di Fini, di Casini, del PD, non è la legalità, Berlusconi, il problema è la Lega di Bossi, che a mio parere è già proiettata in una situazione futura di un'Europa che non guarderà più agli stati-nazione, ma che individuerà l'area geopolitica dell'Europa e la dividerà, quello a mio avviso è quello che sta succedendo a Bruxelles adesso, la dividerà in macro regioni con importanza geocommerciale, geopolitica diciamo, e quindi bypasserà gli stati nazionali. E questo è il problema dei vari Fini and Company, ultimi patriottisti, ultimi nazionalisti, ultime persone che battono gli ultimi colpi di coda, e perché sentono questo con la speranza di salvare, diciamo, unificare ancora di più l'Italia. Invece no. Cosa che vedo difficile, perché giustamente, come diceva di nuovo il signor Speroni, bisogna fare delle scelte difficili. La sinistra non le vuol fare e quindi non è possibile, cioè, mi viene difficile. O l'economia mondiale migliorerà e allora l'Italia avrà una nuova crescita e tutto allora passerà, oppure è inevitabile questo andare verso un bypassamento dei stati-nazione. E quindi infatti io personalmente ho 35 anni E io guardo l'Europa, sinceramente, guardo la politica europea. La politica italiana la vedo come un pollaio di gente che cerca di salvare le ultime poltrone legate a ideologie passate, vecchie. No, Walter, questo è possibile, mi sembra anche abbastanza veritiero. Questo non significa che ci dobbiamo disgregare come paese. Walter, ti ringrazio, però adesso devo dare spazio alla nostra linguista della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle, alla quale propongo, visto che abbiamo parlato tanto, soprattutto della questione Fini-Berlusconi, il termine probiviri. Cioè, in questi giorni si diceva tutti i vari finiani, prima ancora proprio del divorzio ufficiale, devono essere sottoposti, Fini in particolare, al giudizio dei probi viri. Mi è sembrato di catapultarmi nella Roma antica, ma mi sembra che siamo nella Roma di oggi, nell'Italia di oggi, effettivamente. Valeria? Sì, siamo nell'Italia di oggi. Come poi spiegherò, la parola si usa solo dalla metà dell'Ottocento, quindi non ci dobbiamo catapultare nella Roma antica, è una voce dotta, tutta latina, ma ce ne serviamo solo da non molto tempo, appunto, dall'Ottocento. Allora, intanto probi viri, usiamo questa parola sempre o quasi sempre al plurale, anche se esiste un singolare probi viro e anche un singolare probo viro. Sono corrette tutte e due. E i probi viri chi sono? Ricapitolo velocemente: sono persone che godono di una particolare stima e prestigio per la loro capacità, per la loro provata onestà, e per questo sono chiamate a far parte di organi collegiali, enti pubblici, partiti. Devono dare un parere, un giudizio, giudicando dell'andamento di un'istituzione e soprattutto esercitando funzioni conciliative tra parti in contrasto. Ecco, quindi che lo usiamo. Non mi sembra che siano stati efficaci, ecco, in questo caso. In frasi come si è riunito il collegio dei probi viri oppure deferire ai probi viri. Allora, le cose da osservare sulla parola sono tante, ma sarò come al solito molto sintetica. Intanto che fino alla metà dell'Ottocento, addirittura fino al 1846, questa parola dotta non esisteva. Allora ci viene da domandarci, un po' scherzosamente, ma come facevano fino al 1846? Non avevano bisogno di probi viri? E poi la seconda osservazione, ma questa la facciamo tante volte, Roberto, è che la lingua rispecchia da sempre l'universo tutto al maschile, no? Tant'è che infatti mi chiedevo, il probo è solo viro? I probi viri sono sempre, la traduzione è uomini onesti, e non si pensa che... E le malafemmine dall'altra parte. Che ci sono, sì, e che poi ci sono nei collegi dei probi viri, ci sono, cioè anche oggi, se vogliamo vedere i nomi, no, anche in base a certe notizie sconcertanti, ci sono anche signore, donne... Come le chiameresti, quindi, tu in latino? Adesso Dovrei chiamare probe femmine, naturalmente oramai è troppo tardi. Sì. Il nome è maschile, quello ce lo teniamo. Ma c'è tempo, c'è tempo, anche la lingua evolve, come tu ci insegni. Cara Valeria Della Valle, un abbraccio a te, Valeria. Grazie. E buona continuazione. Valeria, abbiamo... velocizzo, perché vi dico, abbiamo pochissimi secondi. Allora, io vorrei fare una conclusione così generale, come vuole, a Donato Speroni. Prima saluto Patrizia della provincia di Cuneo e ti chiedo scusa se non riesco a farti passare. Dimmi solo l'argomento di cui volevi parlare, Patrizia, ma dobbiamo proprio lasciarci, scusami. Mi sarebbe piaciuto un po' prendere il punto di vista della donna, che è ancora molto dipendente dall'uomo, e lei che se li sceglie quei tipi di uomini lì. A volte sono a sorpresa, sai, certi uomini, comunque in parte hai ragione. Che bella sorpresa, comunque, perché comunque ti piacciono quelli. Sono una psicoterapeuta e mi occupo proprio di donne che hanno subito violenza. Patrizia, allora magari ci risentiamo la prossima puntata, un segno a Giorgio De Luca che magari ci risentiamo. Donato Speroni, in questi 23 secondi che ci rimangono, come concluderesti? Direi che abbiamo messo a fuoco il fatto che il vero contrasto al di là di Berlusconi è Bossi-Fini. Come diceva Walter, il problema è se l'Italia può ancora stare insieme o se dobbiamo affidarci all'Europa. Dico soltanto però che abbiamo bisogno che l'Europa ci sia, cioè l'eventuale disegno alternativo allo Stato nazionale richiede un'Europa che funzioni, purtroppo non ce l'abbiamo. Grazie intanto a Donato Speroni col suo libro I numeri della felicità. Intanto, comunque sia, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.